Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno a voi e benvenuti. Oggi parliamo di una storia d'amore, di un amore che si mette in gioco e si trasforma per accompagnare, sostenere, proteggere e accettare la persona amata quando una malattia la rende diversa nel cuore e nella mente. Mi ero resa conto che nella sua mente, nell'arco breve di un anno o poco più, stava andando via via sbiadendosi il presente, sostituito da un passato che, viceversa, si proponeva con inatteso nitore. Così Lino si trovava ad arrancare, tentando, a costo di patetici trucchi, di occultare quel male che ormai orientava la sua mente, spingendola dove voleva e non più dove lui stesso avrebbe voluto dirigerla. Questo male gli confondeva i pensieri, gli occultava i nomi delle cose, lo costringeva al balbettamento, a incespicature, a vergognose richieste d'aiuto. A volte rideva lui stesso della sua smemoratezza, ma era una risata non allegra. E ormai a risate di questo genere, di autocompatimento, era costretto a ricorrere sempre più spesso. Sembrava che quello spazio che nelle persone sane era occupato dal presente, dagli impegni, dalle mansioni del quotidiano, all'improvviso fosse invaso giorno dopo giorno da una nebbia sempre più estesa. Ma non era disposto ad affrontare l'argomento. Non mi permetteva in alcun modo di sapere fino a che punto lui stesso fosse consapevole di ciò che gli stava accadendo e soprattutto di quanto fosse disposto a spartire con me questo suo dramma, fino a quando non decisi di affrontarlo. Abbiamo sentito un breve estratto dal libro Una sconfinata giovinezza, scritto da Pupi Avati, uno dei maggiori cineasti italiani, regista, sceneggiatore, produttore cinematografico che è in linea con noi. Ciao Pupi, benvenuto. Ciao. Pupi, grazie. Il romanzo di cui abbiamo sentito un breve estratto è ispirato alla sceneggiatura del film di cui parleremo tra poco e che sarà il fil rouge della nostra puntata. Ma tu quando scrivi vedi già con gli occhi del regista o è solo rileggendo il libro che scatta l'idea? Beh, devo dire che è un tutt'uno, io non so più distinguere quella, ed era poi in pratica quello che desideravo fare della mia vita, confondere la mia professione con la mia vita, cioè anche in questo momento parlando con te, io in realtà non so esattamente se sto girando la scena di un film di uno che parla con qualcuno alla radio o se invece attiene alla realtà. L'altra sera parlando con mia moglie del cambio di una caldaia che dovevamo fare a Torri, guardandola mi chiedevo, ma meglio che la inquadri da destra o da sinistra? Questo ti fa capire veramente come ormai il cinema abbia compenetrato di sé totalmente la mia vita. C'è un bambino che scappa e la sua mamma si dispera perché non riesce più a trovarlo. E dove vanno tutti i bambini che scappano? Perché è così segreto e irraggiungibile quel luogo? Perché le loro mamme non sanno trovarlo? Come si dice quando uno interviene fra due che stanno parlando? Si intromette. Si intromette. Lo stesso amore di quando erano ragazzi li aveva accompagnati fino ad oggi. Nel territorio di mezzo della loro vita. Che cos'è? Ah, è molto stanco. Hanno ridotto la redazione e lo fanno lavorare tantissimo. Non mi dice la verità. Per l'intero percorso era rimasto con loro. Nei giorni luminosi e in quelli bui. Dimmi qual è il giorno, l'ora, il minuto in cui la voglia di un bambino tuo finisce. Anche per lui è così. Lo stesso amore a tenerli uniti. Ma tu, che sei la sola veramente in pericolo, devi obbedirmi e venire via. Adesso che si sapevano indispensabili l'uno all'altra, un'improvvisa tempesta minacciava di separarli per sempre. Se c'è un modo perché la sua mente e la mia continuino a comunicare, io lo devo trovare. Pupi, una sconfinata giovinezza non è solo una storia di malattia, ma è una storia d'amore. Perché hai scelto questa strada per parlare d'amore? Ma perché innanzitutto io penso che in qualunque terapia, quando un medico insomma incomincia a scrivere sul ricettario quella che è la terapia, la prima cosa che dovrebbe prescrivere è amore, è vicinanza, è affetto, perché credo che soprattutto in certe patologie come appunto questa alla quale stai dedicando la tua puntata, ecco, la presenza delle persone care anche in una situazione di distacco apparentemente totale, di allontananza totale, di incomunicabilità totale. Io vedo che, per esempio, l'esempio di mia moglie con sua madre, che in qualche modo sta soffrendo di qualcosa di analogo, nei momenti in cui lei l'abbraccia, la stringe, le ricorda di essere sua figlia, sono i pochi momenti in cui c'è un barlume di comunicazione che si ristabilisce, non sono certamente solo i farmaci. E quindi l'amore è fondamentale. E poi perché questo male, questo Alzheimer, in qualche modo, che abbiamo vissuto per un breve periodo a casa nostra, ci ha terrorizzati, ma a me mi ha anche un po' sedotto, nel senso che sono un narratore. Allora, essendo una patologia che include a che fare col tempo, con la confusione dei tempi, che in qualche modo privilegia a un certo punto il passato nei riguardi del presente, che fa riemergere ricordi che la persona stessa, il malato stesso, immaginava di avere totalmente rimosso, è estremamente affascinante. Ecco, allora mi sono interessato, l'ho studiata, sono ricorso a consulenti di un'attendibilità assolutamente indubbia per scrivere questa storia d'amore, che poi è su 42 film che faccio, è la prima storia d'amore che racconto. In linea con noi abbiamo Fabrizio Bentivoglio, protagonista insieme a Francesca Neri del film. Ciao Fabrizio, benvenuto. Buongiorno. Fabrizio, chiedo a te, chi è Lino Settembre? Lino Settembre è un uomo, è semplicemente un uomo con tutti i suoi pregi e i suoi difetti, con tutte le sue mancanze, con tutti i suoi pieni e i suoi vuoti. È un uomo, come ce ne sono tanti, però insomma in questo racconto diventa quasi un esempio, oserei dire, o comunque anche la metafora di qualcos'altro. È un uomo che quasi insomma approfitta, anche se è una parola forte, insomma, di una malattia così grave per potersi trasformare nel figlio che non è mai riuscito a dare alla donna che ama, insomma. Fabrizio, che cosa ti ha aiutato a entrare nella parte di Lino? Conosci amici, famiglie toccate da questa malattia, o ti sei avvicinato in punta di piedi ed è stato proprio Pupi a darti questa occasione, a guidarti? Sì, direi più questa seconda ipotesi si avvicina di più a come sono andate veramente le cose. Ho una conoscenza, diciamo, indiretta con la malattia, e noi abbiamo avuto questa dottoressa, che è la professoressa Bartoletti, che ha fatto la consulenza a Pupi e al film intero, insomma, per quanto riguardava, e lei mi ha donato questo suo libro, che non a caso si intitola La relazione possibile, che è un libro fotografico di edito da Alzheimer Uniti Roma. Insomma, è un libro fotografico di malati di Alzheimer, dove si evince che l'unica appunto relazione possibile con queste persone è la relazione affettiva, e quindi questo è stato poi il canale con cui c'è una strana poi concomitanza con questo modo di comportarsi, con quello che è poi il rapporto tra un regista e il suo attore, insomma. Pupi è una storia d'amore, una storia drammatica, in cui però tu sei riuscito a dare rilievo alle emozioni più minute. E questa è un po' la magia. Io prima ho visto il film, poi ho letto il libro e mi sono sentita un po' cambiata. Anche se io parlo di salute tutti i giorni. E devo dire che insomma è un film che io invito proprio i miei ascoltatori a vedere e a leggere questo libro, perché può essere molto utile a tutti noi, anche se non siamo toccati da questa malattia, anche se ne sentiamo solo parlare, anche se pensiamo che non ci toccherà mai, perché Pupi lo sappiamo bene, no? Le malattie sono sempre degli altri, i problemi sono sempre altrove, noi viviamo poi, no? il presente, e fino a quando non ne siamo colpiti siamo immortali, invincibili. Io ho la sensazione di aver fatto, con naturalmente la complicità fondamentale di Fabrizio, anche di Francesca e di tutti gli altri, Ecco, di aver realizzato un film veramente anche un po' di servizio, nel senso che ed è probabilmente la prima volta che nella mia vita che mi capita, nel senso che i segnali di ritorno, numerosissimi, non sai quanti, che mi arrivano e mi pervengono da persone che non conosco e non so neppure come siano riuscite a trovare un canale, un modo attraverso il quale raggiungermi, sono per lo più di riconoscenza. Allora, derivano una parte, una gran parte da persone che hanno, tu sai che in Italia sono 700.000 in questo momento i casi certificati di questa malattia, quindi se moltiplichiamo per 3 persone come componenti di ogni nucleo familiare andiamo sopra i 2 milioni di persone che in questo momento, mentre tu ed io e Fabrizio parliamo, stanno soffrendo di questo problema. Ma al di là di questo, quindi i familiari, le persone, chi se ne occupa, i neurologi, ecco, questi segni di riconoscenza, finalmente qualcuno, finalmente si parla. Ma la cosa più bella ci deriva da coloro che ci scrivono e ci ringraziano per aver raccontato questa patologia così terribile, in un modo non così terrificante come in genere la si considera. Cioè, è un po', succede con l'Alzheimer quello che accadeva 30 anni fa col tumore, col cancro, che non lo si poteva neppure nominare. E questo destino, un po' questo film lo sta in qualche misura pagando, nel senso che la gente teme che sia veramente un film sull'Alzheimer di quelli terrificanti. Al contrario, non voglio dire che è un film rassicurante, consolatorio, che mente dicendo come sia bello avere l'Alzheimer, ecco, sarebbe certo, veramente scandaloso se avessi realizzato una storia di questo genere, però dice, racconta con affetto, con tenerezza, con vicinanza, soprattutto qual è il percorso psicologico, in questo caso di Fabrizio, che torna verso la sua infanzia e quindi trasforma già preliminarmente una patologia del malato in una patologia e in una malattia dei parenti, quindi in qualche modo non li rasserena, nel senso che il malato da un certo punto in avanti smette, e questo è accertato, di soffrire, di essere nella disperazione più totale che vive invece nel primo tratto, nel primo percorso. E questa cosa, per chi ha visto il film, trova che lì non sia appunto, e quindi di conseguenza l'Alzheimer, sia veramente dentro la vita, come ahimè tutto quello che ci accade, non sia qualcosa, come dicevi tu prima, giustamente, correttamente, da sfuggire, da evitare, che riguarda sempre soltanto gli altri. Ahimè, capita e può capitarci che qualcuno della nostra famiglia incontri, faccia questo brutto incontro, e allora questo film in qualche modo ne parla di questo brutto incontro, che però si risolve in una strepitosa, struggente storia d'amore. Quella notte, quando me lo trovai fra le braccia, improvvisamente così fiducioso, così docile, così fragile, ebbi la sensazione che nella mia vita stesse accadendo qualcosa di terribile e di magico. Che Lino, per un tempo che non mi era possibile immaginare, ma che volli illudermi potesse non finire mai, stava diventando quel bambino che non avevo mai avuto, ma che in quei giorni era mio, e io avrei dovuto essere la sua mamma, almeno fino a quando mi sarebbe scappato via, e io non avrei saputo dove si fosse andato a nascondere. Pupi, questa è la svolta, la nuova faccia dell'amore, di questa storia che tu racconti con grande delicatezza. Sì, è un aspetto che del quale vado anche abbastanza orgoglioso. Fabrizio la racconta benissimo, perché la racconta attraverso, come se fosse in realtà questo essere umano che sceglie di diventare quel bambino che questa donna che non ha avuto figli ha sempre desiderato, e visto che non l'hanno avuto è lui che si candida ad esserlo, e attraverso, insomma, è una sorta di di offerta che fa di se stesso, di sacrificio che fa, la racconta come se fosse veramente una favola quasi a lieto fine. Purtroppo noi sappiamo, il film lo dice, che questo periodo in cui nella regressione più totale, in cui il malato torna ad essere spesso, non sempre, ma sovente il bambino che è stato ha una data di scadenza, a un certo punto finisce e lui si perde per sempre, come poi succede anche nella mia storia. Quindi il bambino è come se quella mano che stringe della madre, che stringe la mano del bambino, a un certo punto il bambino si liberasse di quella stretta e scappasse definitivamente via. Fabrizio, come ti ha cambiato questo film? Io penso che un attore, ogni film, ogni personaggio che interpreta lasci dentro qualcosa, o sbaglio? Credo che poi sia soggettivo questo, però insomma a me succede così, io ho bisogno di tempo per entrare nelle cose che faccio e quindi ho bisogno di altrettanto tempo, se non di più, per poi, non dico scrollarmele di dosso, però per poter poi entrare vergine o pulito in una nuova cosa, ci metto del tempo. Questa è stata sicuramente, come diceva Pupi prima, una full immersion, una lezione d'amore. Insomma, come dicevo anche prima, c'è qualcosa che lega poi l'atteggiamento che bisogna avere con queste persone e l'atteggiamento che poi anche i registi devono avere con i loro attori, perché anche questa comunicazione è una comunicazione che avviene solamente tramite una mimica affettuosa, non ci sono bisogno di tante parole, e il tutto avviene attraverso sguardi, toccamenti, abbracci, baci. I piccoli gesti che parlano. Io so che Pupi deve salutarci, anche Fabrizio, e voglio lasciarvi con un messaggio che è arrivato ora da un ascoltatore, non è firmato, e che quindi giro volentieri a Pupi Avati e a Fabrizio Bentivoglio. Grazie per le vostre parole, perché per i parenti è molto dura. Difficile accettare che qualcuno che ti ama non sappia più chi sei. Grazie a Pupi Avati e a Fabrizio Bentivoglio. Grazie, buona giornata. Grazie a voi. Un abbraccio, noi siamo pronti per andare a sentire i mercati, continueremo a parlare della fatica di vivere accanto ad una persona affetta da Alzheimer insieme al professor Giuliano Binetti, responsabile del Centro per la Memoria presso il Laboratorio di Neurobiologia, neurologo e ricercatore dell'Istituto di Ricerca e Cura a Carattere Scientifico Fate Bene Fratelli di Brescia, insieme ad Alberto Pellai, che è qui in studio con me. Interverrà anche Marta Cagnola. Vi aspettiamo. 800 24 00 24, a tra poco. Vivere a fianco di un malato di Alzheimer, tema che rimando anche a voi che già ci state chiamando per commentare il film di Pupi Avati, Una sconfinata giovinezza, a cui abbiamo dedicato la prima parte della trasmissione. Ci aiutate voi da casa a capire che genere di emozioni sperimenta chi vive a fianco di una persona molto amata che all'improvviso si trasforma e diventa altro a causa di una malattia. Noi oggi parliamo di Alzheimer, ma ci sono altre malattie che fanno diventare il nostro amato altro rispetto a quando l'abbiamo conosciuto. Avete un'esperienza personale da raccontare in questo senso, e come si fa a rimanere vicini alla persona, alla malattia, questa storia, senza esserne travolti, a conservare, direi, il ricordo di ciò che è stato senza lasciarsi abbattere dalla fatica di ciò che è, che sta succedendo. 349-238-6666, qui in studio con me Alberto Pellai, al telefono abbiamo il professor Binetti, che ho già anticipato. Buongiorno professore. Buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori, buongiorno. Attiverei i nostri ascoltatori, Alberto, perché io penso che questo possa essere una buona occasione per mandare un messaggio, per trovare, non dico la soluzione, ma il passo. di, direi proprio un messaggio di condivisione, come ha fatto per esempio Paolo Dabiella. Proprio oggi mia madre Clara compie 84 anni e in pochi mesi di malattia appena mi riconosce. Che tristezza. Comunque Paolo ringrazia e direi che ha un messaggio tra quelli che ci arrivano. Faremo poi arrivare il libro di Pupi Avati, che già di per sé è proprio un buon consiglio di biblioterapia per chi si trova a fianco di una persona che vive questo problema. Ho invitato la mia amica e collega Marta Cagnola. Marta, diamo anche un consiglio. Alberto diceva un consiglio di biblioterapia. Marta, perché vedere il film di Pupi Avati? Io lo consiglio di cuore perché è veramente un film di una delicatezza, di una profondità, di una gentilezza nei confronti dei pazienti ma anche dei familiari, che penso possa insegnare tanto a tutti. Ecco, io ti dico la verità, l'ho visto per ragioni lavorative, perché insomma vedo tutti i film che escono, avevo molta paura perché io faccio parte di quella categoria lì, quelli di coloro che si sono trovati una persona che amavano e dalla quale erano molto amati, trasformata dall'Alzheimer. Io ho vissuto quel mio straordinario nonno che per me era un eroe e che nel giro di poco tempo è diventato un bambino. Ma questo film, hai usato i termini giusti, delicatezza, gentilezza, che sono un po' i tratti distintivi di Pupi Avati, intanto fa capire alle famiglie che non sono sole, perché ci si trova in un momento di solitudine e, come dice giustamente Pupi Avati, è una malattia delle famiglie e quindi è un film che provoca e che riesce a suscitare la condivisione. E poi è un film d'amore, è un film che parla davvero d'amore, di come si possa e si debba trasformare l'amore nei confronti delle persone che cambiano con la malattia. Questo film è una grande storia d'amore, non nego che possa colpire nel profondo chi ha vissuto o sta vivendo queste esperienze, perché quello che si vede è vero, anche se è una messa in scena, si vede tutto ciò che le persone hanno vissuto, però io non voglio svelare il finale, c'è un afflato comunque di libertà che dà una speranza che si possa non uscire dalla malattia ma trovare una libertà all'interno di questa malattia veramente cattiva. Grazie a Marta Cagnola per essere stata con noi. Marta, a presto. Presto. Buona giornata. Grazie. Professor Binetti, l'Alzheimer, per chi se ne deve prendere cura, è davvero ancora oggi una malattia dalle molte facce. Anche nell'intervista con Pupi Avati, con quella con Marta Cagnola, sono venute fuori tante definizioni, ma penso che quella più aderente alla realtà sia una malattia della famiglia. E noi oggi vogliamo proprio occuparci di chi sta a fianco del paziente. È proprio, sì, è proprio una malattia specifica della famiglia. Pupi Avati l'ha detto benissimo, perché noi abbiamo i numeri adesso, ha parlato anche di numeri, li conosciamo, delle persone che in qualche maniera soffrono di questa malattia, e ha parlato che bisogna moltiplicare per due, per tre, quindi capite quante persone coinvolte in questo processo, in questa malattia. È chiaro che è tutta la famiglia coinvolta, non è solo il singolo soggetto, perché è una malattia che coinvolge piano piano, non repentinamente come ho sentito, ma purtroppo è molto, molto strisciante questa malattia, ma coinvolge piano piano tutta la famiglia e la porta in tante volte in un vortice che ho sentito anche queste parole, che terrorizza, è terribile. Sì, questo è vero, però a me è piaciuto molto, ecco, volevo girarla questa riflessione, come ha affrontato il tema Pupi Avati dal punto di vista dell'amore proprio. Cioè che questa malattia può riservare anche delle sfaccettature, anche dei momenti, dei periodi di relativa serenità e di amore proprio tra chi vive questa malattia. E gli esempi ci sono, io li sto vedendo sempre di più, queste famiglie che si prendono carico del paziente e riescono a vedere un'altra faccia della vita del paziente, un'altra faccia della vita della famiglia stessa. Questo mi sembra una cosa importante, è quello che dovremmo tentare di fare un po' con tutte le famiglie. È chiaro che è una malattia terribile che porta a perdita dell'autosufficienza, lo sappiamo, però c'è spazio per poter agire, c'è spazio per le famiglie aiutate naturalmente, non lasciate sole, questo è un altro aspetto, la solitudine che vivono tante di queste famiglie, ma quando escono dalla solitudine hanno delle energie incredibili, tutta la famiglia, anche la singola famiglia possiedono delle energie che se convogliate bene riescono a dare dei lati, faccio fatica di queste parole positive, ma è difficile, ripeto, vedere dei lati positivi in questa malattia così terribile, ma si possono vedere gli esempi li abbiamo sotto gli occhi. Io stesso che vivo questo problema tutti i giorni, io ho tanti esempi di famiglie che sono riuscite a voltare pagina, mi dicono addirittura stiamo vivendo un altro capitolo della nostra vita della famiglia, ma è un altro capitolo, non necessariamente estremamente negativo. Non so se ho lanciato dei suggerimenti o delle riflessioni. Naturalmente che con cui si confronteranno i nostri ascoltatori che possono intervenire all'800 24 00 24. Savina ci chiama da Belluno. Buongiorno Savina. Buongiorno dottoressa e grazie per tutto quello che avete detto. Allora, io cammino da 10 anni con mio marito nella malattia della patologia degenerativa e devo dire che prima c'è stato il rifiuto proprio della malattia. Poi ci siamo abituate io e lui è sempre meno attento e io sempre un po' di più. Però devo dire che quando ho la certezza che non ha la sofferenza psichica e fisica, tra di noi c'è un'armonia che non c'è mai stata in 40 anni di matrimonio. Ed è una sensazione stupenda che io provo, anche se mi costa tantissimo, perché credo di aver sviluppato una sensibilità e una capacità, come dire, di capirlo, per cui mi sento insostituibile, ho questo orgoglio. E il dialogo continua con altri mezzi, con altre dimensioni, ma io sono qui che gli tengo la mano e lui è sereno. Guardi, volevo dire questo, c'è un risvolto positivo anche in questa malattia, bisogna sapersi un po' adeguare e vedere anche le ragioni della natura, insomma, le leggi della vita, ma c'è. Grazie. Una tenerezza infinita. Grazie Savina, grazie. Alberto, arrivano dei messaggi davvero molto commoventi, di messaggi di grande energia, di grande forza, che così commuovono proprio perché parlano di una malattia che invece così ti porta via la persona amata. Vedo che sei commosso anche un po' tu, sì, non solo io. Credo che sia proprio una bellissima puntata di condivisione, ecco, di narrazione e condivisione. Penso che c'è dentro anche un messaggio fondamentale, una delle cose che tutti noi umani facciamo sempre di fronte all'imprevisto, all'imprevedibile, a ciò che ci spaventa, è resistere al cambiamento, proprio porre una sorta di corazza per cercare di mantenere tutto com'è. Questa è proprio una malattia che invece chiede di entrare dentro al cambiamento di chi si è ammalato e in qualche modo di accompagnarlo, assecondarlo e accettarlo, ecco, nell'accettazione poi scatta secondo un cambiamento anche nella persona che sta vicino e che permette un nuovo modo di stare con, che diventa anche uno stare per. Come un messaggio, prendere per mano per camminare insieme poco a poco verso un tunnel di luce, viabilità. Quando la malattia chiede all'amore di trasformarsi per avere nuovi occhi, nuovi gesti, nuove parole e vivere accanto alla persona amata. Oggi la puntata è dedicata alle persone che affiancano, sorreggono e tengono per mano i malati, i cari, che una malattia li porta lontano. Nello specifico oggi parliamo di Alzheimer, ma questa trasmissione vuole essere anche un'occasione per raccogliere le vostre emozioni, le vostre parole, le vostre riflessioni, anche se non siete toccati dalla malattia, la vivete solo attraverso storie di altri o avete accanto un malato che non è affetto da questo tipo di malattia, ma che richiede da voi attenzioni, cure e cambiamenti. Voglio parlarvi anche di un altro libro che ci è piaciuto molto, più che un libro direi un lungo ed emozionante diario, non solo dentro la malattia ma anche in questa trasformazione. Si intitola Io, madre di mia suocera, vivere accanto ad un malato di Alzheimer, Paoline, editoriale Libri. E in linea con noi abbiamo l'autrice Monica Folladore. Buongiorno. Buongiorno a lei. Allora, una suocera, appunto, non la propria madre, ma la madre del proprio compagno, che diventa figlia. Un po' come abbiamo sentito nel film di Pupi Avati, quando il marito, Lino Settembre, si trasforma nel figlio che non è riuscito a dare a sua moglie. Cosa l'ha portata a fare questo cambiamento, a vedere sua suocera con occhi così diversi? Beh, intanto premetto che nutro per mia suocera un grande affetto, e questo da sempre. Però ovviamente chi è malato di Alzheimer tende proprio a regredire, pertanto c'è la necessità di inventarsi un altro ruolo, e di fatto mi sono trovata a farle quasi da madre. E allo stato attuale è quasi commovente vedere che, per esempio, il nipote dà il biberon alla nonna, addirittura anche il nipote è diventato quasi genitore di una nonna, assurdamente. Professor Binetti, c'è proprio un cambiamento di ruoli all'interno delle famiglie. Dai messaggi che arrivano e dalle storie che spesso i miei ascoltatori mi raccontano via mail, c'è nella famiglia prima un rifiuto della malattia, un non volerne sapere, un cercare di tenerla lontana, poi alcune famiglie riescono. Questo è proprio il momento del rifiuto, è il momento a mio avviso cruciale, in cui noi, cioè ne dico noi, i tecnici che lavorano in questo settore, noi dobbiamo concentrarci, perché è un momento veramente tragico. In questo momento le famiglie hanno bisogno di aiuto, ma questo aiuto tante volte è un aiuto che si esplica nell'ascolto, che si esplica nell'ascoltarli, nel metterli a loro agio. E poi quello che facciamo noi, per esempio, è di, oltre a questo momento dell'ascolto, formare questi familiari. Cosa vuol dire formare? Noi, chiaramente, il nostro focus principale è il paziente, io faccio il neurologo anche dal punto di vista ricerca, è il paziente, ma abbiamo capito che la formazione, una formazione continua dei familiari, li porta a stemperare questo atteggiamento di rifiuto, a conoscere meglio la malattia, a conoscere cosa devono fare, come devono affrontarla e come nel tempo aggiustare i loro comportamenti. Certo, questo implica un tirare il freno a mano, tirare improvvisamente una macchina che sta viaggiando a 100 all'ora e rallentare il tutto, cercare di capire cosa sta succedendo nel proprio congiunto e cercare nuovi metodi proprio di comunicazione. Nuovi metodi di comunicazione che non necessariamente dovranno essere il linguaggio, quello che noi stiamo usando ora, insomma, ma il tatto e tanti altri metodi proprio di stare con questi pazienti. Io trovo anche che, tra l'altro, per una famiglia con figli, come per esempio quella di Monica Follador, lo stare con un familiare che ha una patologia di questo tipo diventi in automatico una straordinaria lezione di vita per i figli, e tra l'altro aiuti proprio i figli a guardare la vita con una nuova immagine. Questo è proprio uno degli argomenti ben raccontati nel libro Io madre di mia suocera, e c'è un estratto bellissimo, una lettera scritta dal figlio. Carissima nonna, i miei genitori mi hanno sempre detto che saresti stata una nonna fantastica, che ti sono sempre piaciuti tanto i bambini e che con me tu saresti impazzita di gioia. Ci tengo a dirti che io sono contento di averti come nonna anche così, come sei ora. Sei la nonna più divertente del mondo e di certo anche la più strana. Mi dispiace che ti arrabbi sempre con la mamma, che vuole solo aiutarti. La tratti come se non la conoscessi. Ma lei è mia mamma, lo sai, vero? È buona. Mi piace da matti sentirti cantare, specie quando scambi tutte le parole. Sul serio, nonna, non avrei potuto avere una nonna più divertente. Magari potresti evitare di cantare di notte, perché per noi è importante poter riposare. Poi il papà la mattina deve andare a lavorare e tu mi devi sempre aspettare, perché mi piace, quando torno a casa da scuola, a dirti che cosa è successo, che voti ho preso, raccontarti le barzellette. Soprattutto mi piace sedermi vicino a te e ascoltare le tue strane storie, mentre mi guardi, mi accarezzi e mi coccoli. Però ricordati anche di mio papà. È lui tuo figlio. E poi io non sono una bambina. Mi chiami Riccardo, ma mi dici che bella bambina che sei. Sono un maschietto io, anche se ho gli occhi grandi. La mia mamma mi ha chiesto di scrivere questa lettera da inserire nel suo libro, perché dice sempre che noi due abbiamo un rapporto speciale. Per me è normale volerti così tanto bene. Con affetto, Riccardo. Professor Binetti, questa lettera ad Alberto Pellai a me ha molto colpito, certo. E Monica l'ha inserita naturalmente nel suo libro, bellissimo, Un ragazzo bellissimo. Speciale. Noi in questa trasmissione abbiamo deciso di dare un taglio, di parlare di storie d'amore. Non abbiamo parlato di terapie, non abbiamo parlato di diagnosi. Oggi la diagnosi si può fare molto rapidamente, l'importante è arrivare, no? A farsi visitare. Arrivare proprio al posto giusto, nel momento giusto. Quando si parlava di solitudine, implica anche che moltissime famiglie non hanno l'accesso proprio ai servizi che noi abbiamo in Italia, che abbiamo distribuito, questi servizi li abbiamo distribuiti proprio sul territorio. Quindi proprio bisogna arrivare ai servizi e cominciare a parlare di questa malattia, fare una diagnosi e poi prendersi in carico tutta la famiglia. Questo è il nostro modello. Fate una figura importante, è il medico di famiglia a cui bisogna rivolgerti e che riesce ad essere un anello sempre molto importante tra i servizi e la famiglia. Alberto, noi abbiamo selezionato l'SMS che ci ha più toccato e che riceverà, grazie alla collaborazione con IBS, il libro di Pupi Avati, Una sconfinata giovinezza. Sì, teniamo il messaggio prendere per mano per camminare insieme poco a poco verso un tunnel di luce. Grazie a Monica Folladore, di cui vi ricordo e vi invito a leggere il libro Io madre di mia suocera, vivere accanto ad un malato di Alzheimer. Grazie a voi che ci avete seguito, buona giornata da Nicoletta Carbone.